I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Che cosa sta determinando il nervosismo su tutti i mercati finanziari europei, con i conseguenti cali delle borse, soprattutto dell'area euro? Si possono avanzare molte ipotesi, alcune spiegazioni su casi singoli e individuali e addirittura alcuni pretesti. In realtà quello che sembra chiaro è che gli investitori in questo momento stanno fuggendo dal rischio, ossia scelgono di aprire posizioni molto più prudenti e sicure, per esempio comprando titoli di Stato, e chiudere invece posizioni definite e ritenute molto più rischiose, come quelle sui titoli azionari. Non esiste, da quello che si vede, un motivo unico e forte, ma un insieme di quello che si potrebbe chiamare un combinato disposto, un insieme di vari elementi che portano comunque al medesimo risultato. Tra questi due vale la pena che vengano citati, perché sono sicuramente quelli predominanti. Da un lato si apre una settimana, e si è aperta una settimana molto interessante e tesa per la Grecia. Vi sarà domani la prima votazione del Parlamento e il rischio che la Grecia diventi non più curabile è un rischio che molti operatori vedono come paura e minaccia. Dall'altro c'è una Russia in cui, nonostante gli interventi della Banca Centrale Russa, ha speso 100 miliardi di dollari per sostenere il rublo, ebbene nonostante questo la valuta russa continua a precipitare e aggiornare nuovi minimi storici nei confronti sia del dollaro che dell'euro. Non si capisce quando la crisi russa potrà fermarsi, anche perché è ulteriormente aggravata da un calo continuo del prezzo del petrolio che peggiora ulteriormente la bilancia commerciale russa. E allora, con questo scenario, gli investitori, visto che si avvicina anche la fine d'anno e si fanno i bilanci, preferiscono andare su posizioni più sicure e meno rischiose. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi 30 milioni di contribuenti hanno pagato il saldo dell'IMU e della TASI. Lo hanno chiamato Tax Day, ma il nome in inglese non deve far velo al fatto che è la chiusura di un anno fiscalmente orribile. Caos nelle date di proroga, ingorgo di scadenze, norme retroattive. Gli incassi saranno più o meno come quelli dell'anno scorso, a 23,7 miliardi, ma verranno aumentate dalle nuove tasse decise con un blitz di fine anno sui terreni montani o parzialmente montani che hanno perso nottetempo l'esenzione. Entro fine anno poi partirà una serie di controlli a tappeto in base al cosiddetto redditometro, e nel mirino saranno i redditi del 2009. Se l'Agenzia delle Entrate riscontrerà scostamenti vistosi tra entrate e uscite, scatteranno i controlli. Poiché si tratta però di una corsa di fine anno, salteranno anche i paletti di garanzia del contribuente nel caso del contraddittorio, e così salta anche lo statuto del contribuente, che doveva avere un po' l'impatto in campo fiscale dello statuto dei lavoratori. È evidente che rimane poco più che un esercizio di stile. Insomma, questa chiusura d'anno fiscale ci ripropone in realtà il variopinto catalogo di mostruosità che ha portato nel corso degli anni l'Italia ad avere una pressione fiscale del 44% sul PIL, pari a oltre il 50% in realtà per le persone oneste, e ad avere un prelievo sulle imprese che ha raggiunto il 68%, che non appare nel mondo industrializzato. È appena arrivato in porto un decreto sulle semplificazioni che in realtà, stando agli esperti, rischia di complicare più che semplificare. La delega fiscale, che ha in grembo una serie di riforme molto importanti come quella del contenzioso, il catasto, il miglioramento del sistema della riscossione, langue in attesa dei decreti attuativi che non arrivano. La vera novità e unica per ora è lo sconto dell'IRAP sul costo del lavoro, un segnale forte per un fisco che guarda a chi investe. Ma in questo mare magno di caos e incertezze rischia di fare l'effetto di un raggio di sole tra le nuvole nere. Vedi la striscia di luce, ma è chiara la percezione che fa brutto tempo. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.